Ammettere di amare una persona che amavi più di ogni altra cosa al mondo sarebbe una bugia, ma si va avanti. Provvistore al cassetto, cercavo un sogno e mi ritrovo quella lettera siglata con il tuo rossetto. E ripenso a noi dopo aver riletto che in questo rapporto meritavo più rispetto. Chi l'avrebbe detto che certe parole dopo anni avessero questo effetto? Così certi momenti riaffiorano alla mente, riportandomi al 2005 inevitabilmente. Provvisto meglio, e in mezzo a qualche foglio c'è anche quella foto che immortale il tuo sorriso. Quel sorriso che prima mi ha stregato e poi mi ha ucciso. Ricordi alla rinfusa mi fanno prigioniero, legandomi ad immagini di cui non vado fiero, consapevole che quei momenti non potranno tornare, svanendo come nuvole quando il sole tornerà a risplendere. Il ricordo più importante della mia vita su cui avevo scommesso, gli attimi indimenticabili che porterò per sempre tatuati addosso, quei momenti passati insieme senza regole da cartellino rosso. La storia sbagliata in cui non posso ricascare, non posso ricascarci. Non mi arrendo, ai tuoi squilli non rispondo. Mi rendo conto che un altro sbaglio sarà fatto, appunto. Poi quella mail che parlava della lettera, di quello che c'era tra noi, eccetera eccetera. Mi hai chiamato, non pensavo di averti colpito, era solo un chiarimento, non mi aspettavo alcun invito. Dai che domani ci vediamo, e intanto sono qui a chiedermi se ancora ti amo. Cosa pensare, cos'è da fare per evitare che ci possa ricascare. Impazientemente faccio scorrere le ore nella mia mente. Non me lo spiego, sono diversi anni che non ti vedo e sto male, non lo nego, sono momenti strani. E intanto penso cosa farò domani quando stringerò di nuovo le tue mani. Il ricordo più importante della mia vita su cui avevo scommesso, gli attimi indimenticabili che porterò per sempre tatuati addosso, quei momenti passati insieme senza regole da cartellino rosso. La storia sbagliata in cui non posso ricascare, non posso ricascarci. Sono eccitato all'idea di rivederti, eppure fino a ieri non pensavo a certi aspetti. È arrivato quel momento, sono qui che stringo le tue mani, ma quelle vibrazioni non le sento. Ho una cicatrice, ferito nell'orgoglio, il destino è stato scritto, l'è scritto su quel foglio. Non farò lo stesso sbaglio, è ora che mi sveglio. Un incubo è pur sempre un sogno, di un episodio che ha lasciato un segno. Non sempre si riesce, non sempre ci posso riuscire. Quando c'è uno strappo, non sempre si può ricucire. Mi dispiace, è stato bello rivederti, ma sono cambiato. Non potrò più amarti, io il cattivo, forse il cattivo di questa storia. Mi sento vivo da quando ho eliminato un'altra troia. Il ricordo più importante della mia vita su cui avevo scommesso, gli attimi indimenticabili che porterò per sempre tatuati addosso, quei momenti passati insieme senza regole da cartellino rosso. La storia sbagliata in cui non posso ricascare, non posso ricascarci più.